C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. CQ canale 10, c'è qualcuno qua? Segnale forte, detto, potrebbe essere Natalino, male che vada, mi risponde un altro. Poco fa l'ho provato con il nuovo cavetto di alimentazione che mi sono costruito io. Dopo ti mando le foto di come era. E io. Bella giornata. Panciolle al fresco qua. Adesso do da mangiare a mamma. Se dato da mangiare a tua madre, gli devi dare da mangiare. Non ho capito, devo dare. Ah, devi dare da mangiare a tua madre. Adesso ti mando le fotografie di come era il coso, come si chiama? Il capo di alimentazione che mi avevano dato. Riga, ho recuperato il cellulare che c'era uscito dietro il letto. Tutto impolverato. E anche il tappeto del microfono mi sto facendo nuovo. Riga, sto vedendo, c'erano anche messaggi di prima. Riga. Aspetta ad aprire l'ultimo. Ah, ecco, questo è del microfono, sì. Ci ha messo anche il, come si chiama? Quello che si restringe. Va, l'autorestringente. E allora, in quei cosi non c'era neanche il coso isolante, figurati. Adesso me lo sto facendo con un altro cavo, più grosso, bello. Figurati, visto l'hai lo spinotto di alimentazione com'era? Sì. Il primo, la prima foto è. Infatti non capisco da che parte si guardi, è tutto. Ehi, invece di essere quattro i fili, sono due. Mi si è bruciato il portafusibile confusibile. Perché come cazzo fanno a passare 20 ampere in quel cavo lì? Vuole la 2,5 almeno. Me l'ho fatta a 4, come deve essere. Gli ho messo due portafusibili con i fusibili di quelli buoni. E almeno posso alimentarlo bene. Adesso sta andando con 10 watt. Via, a dopo. Un attimino mi devo fare questa cosa. E chiama, già sono qui. Hola. Natalino. Allora, c'è qualcuno qua? Stavo spazzolando e c'è una moltitudine di chiamate sulla tripla 5, però segnali magari non eccezionali. Ho capito. Come sta uscendo? Gli ho fatto il cavetto nuovo, la giunta è bello. Sì, un po' al limite per il mio orecchio, un po' al limite, dovresti abbassare un micron di microfono. adesso su 10 sono. Deia. Infatti ho sentito appena appena lo splatterino, perché sono 10 kHz di distanza e ti ho sentito. Bene. E adesso sto allungando. Aspetta un attimo. Hola, hola, Coca-Cola. Mamma mia, questa serata non passa più, per carità. Che ore sono? Ancora le 4:30. Passate. Marco, ci sei? Certamente. Adesso gliel'ho fatto senza essere spiralato. Quello spiralato era, l'avevano tagliato e quindi gli mancava la parte dritta senza essere spiralata. Gli ho fatto una passata sulla capella e adesso sta asciugando, cioè sta raffreddando. Sì. Io stavo pensando, allora, questo microfono come altri hanno la ricezione collegata, no? I barchini moderni non ne hanno bisogno del cavetto di ricezione, però un paio di apparati che ho, un Intec e un CRT, necessitano di quello, però praticamente se io lascio il cavo di ricezione attivo non lo posso usare sul 5500, perché sul pin 4 arriva tensione e rischia di spaccare tutto. Quindi o di quei due apparati me ne frego, tanto uno è pure omologato e l'altro pure. Come dire, sì, mi sa che me ne frego dei due omologati e negli omologati ci uso l'altro mic, quello con il cavettino della ricezione. Se non ci volevo mettere un micro deviatore in modo da staccare il filo della ricezione a mio piacimento, però poi diventa una cafonata, boh. Non lo so. Io mi devo ordinare il pedale per mettere la portante col piede. Eia, ma è una cosa che si autocostruisce oppure è una cosa che si compra? Dovresti chiedere, c'è un radiatore, forse più di uno che ce l'ha. Ehi, Marco ce l'ha. Mi serve di sapere dietro dove lo devo collegare, capito? Sì, perché dietro ci sono prese accessorie, quella hatch, che io credo se fosse accordatore, no, invece, vabbè, accessories in inglese, ognuna magari serve, sì, un ablacolatore, uno può servire per il PTT remoto, in questo caso il pedale come lo puoi mettere tu, e anche altre cose che io non conosco perché sono cose che si usano in ambito amatoriale. Cappa. E infatti, Marco, io chiederò a Marco Scorpio che lui mi dirà cosa fare. Non passa più questa serata, Natalia. Ci fosse un bel film da vedere almeno, porca miseria. Perché sai, con mamma così non è che me ne posso andare a zonzo. Sì, posso uscire mezz'oretta, ma per mezz'oretta mi messo a casa. Adesso non devo aver paura che scaldi. A quanti watt è salito? Aspetta un attimo che lo abbasso. Allora. Vedi bella. Adesso ho 10 watt. Si può fare a dare un picca la giura. Cioè, per vederanno le tornate di Nocoma. Ehi, lo fatto con un cavo che avevo da un metro, che va benissimo. Grosso è il cavo, lo so quanto è bello questo spezzone. Queste cose le abbiamo fatte, io non avrei dubbi, anch'io mi volevo fare quel cavo, perché anch'io ce l'ho a due e ho sempre paura di sollevare la radio. Capito? E queste io le ho prese esatte del radio, mi hanno dato il cavo a due, quelli che ce l'avevo io prima erano tutti a quattro. Sì, a casa, Marco, non... Quelli X per me. Scusa, volevo andare al mare, ce n'è tempo per andare al mare. Ancora, già c'è tempo. Poi ci avevo da fare, io ci avevo da rasare il tratto, finire dei lavoretti nel Carvelio, quindi io la domenica mi dedico a queste cose. Va bene, beh, riprendi Marco con Natalino, un minuto, io già sono qua, sto facendo una cosa. Ehi Marco, è andato in quell'X un attimo. Via, aspetta 5 minuti, Natalino, ti arrivo subito. Gappa, va bene, dai. Ma ti hai ordinato il kit e te l'hai fatto tu? Io ho messo un altro cavo, gli ho aggiunto, l'ho fatto con quattro cavi, due neri e due rossi. Poi ci sono due fusibili, uno per ogni cavo, capito? Adesso è tranquillo, gli ho messo i capicorda, quelli in rame, quindi so ben davvero mi... E così vuoi fatto, vuole fatto così, perché se lo metti a due rischi di che scaldi, capito? Può scaldare, come è successo a te, ma è successo anche a me. A me mi si è bruciato una punta di quello bianco, capito? Ha scaldato e sei giusto. Vuole fatto così, non c'è niente da fare. Vabbè. Sono belli lunghi adesso, sono perché ce li ho sopra tutti gli alimentatori, capito? E quindi volevano lunghi e in più vuole a quattro quello lì, con due fusibili. Vedrai, così va bene. All'alimentatore ci ho messo quei capicorda, ci ho messo. E così almeno è a posto. No, già se ne va bene, fai. E io la grande, ma no, pure va bene. Gappa. Ah, cioè? Sì, 10 watt. Adesso è a posto. No, era più alto. Se ne è salito me. Con questo caldo va bene, 10 watt, no, se no scaldiamo troppo, c'è troppo caldo, Natali, capito? E per radio 10 watt va bene, d'inverno lo puoi mettere anche a 20, 30 watt è importante. No, era lui da Gaddesi, la sassa rivine più che a sufficienza. Sì, ma infatti se poi succede che c'è qualche quadro più uno poi lo porti a 20 watt, ma non devi aver messo problemi, se hai cambiato il cavo non fa niente alla radio, già va bene. Ehi, mi è arrivato quel kit che ti avevo detto, con lo spinotto, con gli affari da mettere dentro, tutto completo. Aggio biliardo, rigavi, chi va via, i nomi grossi e viaggio buchi. Gli ha messo quattro cavi dentro lo spinotto. E lui è puro e sano. E prima ho fatto lo spezzone per l'MC60. Ah, hai fatto bene. No, il mio è pronto. Per quanto franco stamattina, ma no, non ci sono andato perché no, non c'è. Sicuramente sono a Sentino con campo in giro da qualche parte. Domani mattina ci passo, me lo faccio fare. Ma ti ripeto, a me il carretto non serviva, io il carretto funziona perfettamente, era un problema di microfono, capito? Sì, già lo so che funziona bene il tuo. Ma questi senza essere spiralati sono meglio, che si ribobini sotto all'apparato, no? Guarda. governo di Russo. Questo qui è grosso, è bello, perché mi aveva sbagliato. Lo volevo mettere per l'altro microfono, però non puoi crimparlo questo qui perché è troppo grosso. E allora l'ho fatto a due per l'MC60. Lo spinotto mi aggiungerà due aghi su, siccome non ne avevo e non ne hanno fusato gli affiniti, ne ho tirato da quello che mi aveva tutto. Capito? E quindi mi ha giovato Vitio lo gozo. Ecco, e ne ho due microfoni, uno per uno e uno per l'altro. E si conferma, e va bene così, e KK. Anda bene Meda. Anda bene benissimo, non bene, anda bene benissimo. Cazzo, l'ho aperto quello spinotto, ma lì ci dentro ci sono, quello comprato. Cazzo, c'erano tutti i viri tagliati a misura diversa, invece si sono tagliati tutti alla stessa misura e poi a misura proprio qua. Era un cavo del cavolo proprio, ma quelli tieni ci sono, quello era un cavo comprato. Ma quello che ti ho restituito io? Ehi, non c'è di là dello spinotto che mi si via malizio. Allora dovresti vedere che c'è un viaggio portato da Franco, quello che stavi usando tu. Mi è bloccato, c'è qua. Qua. C'è bloccato, vero? E cosa? Il microfono. Non sta uscendo più, vero? Si è abbassata. Non si è abbassata, no, niente ho fatto. Oh, oh, oh. Ecco! Mimi, avanti! Ehi, buonasera, dai, Gianni doppio Luna! La Girella, stiamo andando a Platanon! Vai in giro, la vai! Ehi, cosa ci faccio a casa? C'è caldo! A me mi piace girare! Vai, girava! Io stavo facendo cosa qui, quindi non sono uscito, però me ne ho portato la macchina che mi serviva. E quindi come c'è il caldo a casa tua? C'è un fresco qua, c'è un 21 gradi dentro, fuori ce n'è 28-29, quello che venne. Sì, vabbè, io voglio fare come adesso, se c'è già gente, Platamola o se ci può andare a pescare, perché voglio fare una pescata a circa la mano. Ah, non lo so, se c'è gente o non c'è gente, cosa vuoi che ti dica? È andato a verificare sto. Adesso verifico e vediamo un po', se non c'è gente magari una cappatina me la faccio. Sì, ma sei da solo? No, non sono da solo. Ah, vabbè, avvisa sempre, non sa mai che diciamo qualche parolaccia. No, ma sono con una con mio nipote, sono, non sono con lei, dai. Ah, allora non c'è problema. Allora già è maschio, va bene. Va bene, va bene. Non so, sicuramente c'è un sacco di gente perché si stanno buttando tutti al bagno. E se di veloce andando a mare. Aspetta da mercoledì che inizia a cambiare la temperatura e piove pure. Lo sai cosa c'è? Che si vogliono abbronzare prima per non andarci bianchi, capito? C'è gente che si mette questi problemi, io non me ne aggiungo mai bus. Io c'ho con il nieto bilico già, sono sempre i pantaloncini a petto nudo qua, figurati, c'è bisogno di andare al mare. Bah, e poi, come hai detto tu giustamente, non me ne ho mai creato problemi. Vabbè, vai a crearti problemi. Allora, niente, ma ragazzi, per carità. Specie le donne si creano questi problemi, specialmente le donne. Allora, ci ho confessati. Bah. Mia figlia si mettiamo la sdraia, c'erano tutto nel giardino, si sdraiano nel giardino e ha voglia per gli assoli. Il costume? Allora, Morgandi. No, per carità, sto facendo questo. Vabbè che per me è uguale, dai. lui sempre molto grande, non è un problema. Ma loro già ci mettono il costume, ci mettono fuori, capito? Ma lui ha degli asciori, a volte ci mettono anche dal caldo che c'è. Già è abbastanza riservato lì, no, riservatissimo, non c'è nessuno, no, che faccia la macchina, ti vedono, perché ha pure qualcuno nudo c'è voi. Vabbè che ho visto un drone l'altro giorno, non si sa mai. Sì, mi faccia me sopra, e poi mi dia il tempo di caricare la pistola, devo via lo drone. Invece lo drone è proprio bello, vietato a fare queste cose già, assolutamente, io non ne ho mai visto, la verità, mai, neanche quando ero a Carbonazzi, mai, una volta a Monteoro sì, però era della forestale, stavano cercando roba, piantagione di marijuana. Asturia, questo qua stava volando col drone, però lo stava facendo arrivare vicino a una villa, lo faceva atterrare, questo qui si è affacciato, gli ha detto tutti. Ecco già, non ho sentito niente, c'è propagazione, ti ha completamente coperto, c'è gente in FM. E lo senti tu? Sono americano, il ragazzo è un tedesco, non si comprende nulla. Arriva a fare lo scala in FM. Allucinante! Uno scala, 9 più 60 in FM arriva. In M 9 più 10. Che palle, si mettono in FM a rompere le palle, poi disturbano. E se non è che cambiamo canale? Ma lo teniamo a canale io. E tanto ti chiusa. Frequency News, Frequency News, la matta che te ne va. Frequency News. Sì, Germani, Frequency News, Frequency News. In Sardegna, state disturbando, Frequency News, a pietra modulata. Sardegna, frequenza in uso, verigo di Scigna, non me ne fotti nulla del verigo di Scigna, ti ho detto la frequenza è occupata, via di. Me ne ti ha detto che è una scimmia. Verigo di Scigna, segnale alto mi, capito? Mi sto arrivando forte anche io, però lui sta arrivando più forte qua. Lo so che alto, l'ho sentito anche io, l'ho sentito anche in FM, forse. Infatti volevo fare il collegamento, non aggiungo collegare nulla io, non aggiungo di video da collegare. Dove sei già? Sono vicino a Graziella. Gappa. Stai attento a Budimudini, che c'erano le telecamere di nuovo. Dove? A Budimudini stamattina. A me mi hanno fregato 3 punti della partenza, lo sai. Ci mettono sempre lì, vicino a Gosmino, Occio. Ah, vicino a Gosmino, no, di solito si mettevano all'inizio della Budimudini, lì me li hanno presi a me i punti. Ma ci stanno mettendo giù in modo che tiranci, beh, capito? Quasi alla fine del rettilineo sono. Hai fatto bene a dirmelo. Ah, sto andando piano, Devo tiranciare, perché non la vedi la macchina. Mettono la punta e poi bloccare un capo e ti biglietti buono nella baretta. Però loro dovrebbero farsi vedere, per legge. Non è regolare una cosa del genere. Per legge si devono far vedere. E devono mettere anche il cartello. insomma, controllo della velocità. Si accende all'inizio la Woody Woody, il cartello contro la velocità elettronica. Cioè, guarda che c'è. Già si fanno valere, non ti preoccupare, ma è buttato la baretta a me. Oia, ti hanno fermato? Sì, sì, mi hanno fermato. Però non l'ho mai buttito perché l'ho vista prima, quindi ho rallentato e mi sono fermato davanti a loro che ero a 50, 60. Là. No, quelli che hanno fatto a me ci avevano la pistola, quella... No, non c'era la telecamera, no. C'era proprio il posto di blocco. Capito? C'era proprio il posto di blocco. Manager, ci c'erano anche nelle macchine i vigili adesso le telecamere. Anche nelle moto ce l'hanno le telecamere, non ti preoccupare. Anche nella moto ce l'hanno i vigili urbani. La microcamera per il traffico. Quindi bisogna stare attenti. Aspetta un attimo, già mi hanno chiamato. Ehi, oh, io, Gianni Ghidu, Gianni Ghidu. Ebbene, ti sei battente. Mi stavo modificando il cavo di alimentazione di questo apparato perché mi si è bruciato il portafusibili e il fusibile e la tubiera. Il cavo non andava bene, me l'ho fatto nuovo e poi mi ho fatto lo spezzone per questo microfono qua. Quindi adesso andrà bene mela e con l'arricciolato me lo tengo di scorta. Non è quello piatto originale il cavo elettrico? No, me l'ho fatto io a quattro fili. Ah, ho capito. E dove l'hai beccato questo cavo a quattro fili? No, gli ho messo due rossi e neri e due rossi e neri. Però lo spinotto me l'ho fatto arrivare da fuori. Quindi gli ho messo anche lo spinotto nuovo dell'alimentazione, capito? Quello lì non andava bene, gli ho messo un fusibile anche in più e sono per ogni rosso e nero c'è il fusibile, capito? Io l'ho messo di quelli grossi, i fusibili, quando ce l'avevo c'avevo di quei fusibili grossi di vetro. Ma lo vendi anche lì? Cosa? Il cavo, non lo stai vendendo, vendimelo io. Al limite di rubo su va, adesso bisogna guardare se da fusaro c'è, tanto io ho quello vecchio, se da fusaro c'è lo spinotto, cosa ti costa comprarti 2 metri di cavo? Lo taglio uguale a un metro, a 4, non ci vuole molto a farlo. Io lo spinotto ce l'ho, mi mancano i puntali, quelli che entrano dentro lo spinotto mi mancano, perché non ce li avverrà. No, tu ti devi dire, a me mi ha dato i puntali e lo spinotto mi è arrivato. Normalmente andavo a giocare a 5 euro nel baricosa, una decina di euro ho speso tra spese di spedizione e spinotto. Sì, conviene perché il cavo costa intorno ai 30 euro, 38 euro compresa la spedizione, cosa del genere. Gappa. No, io lo spinotto ce l'ho perché l'ho comprato a Fusaro, solo che Fusaro non c'ha i cosi. Devo andare da Bricome, lì, nella parte elettrica ci sono i puntali, capito? Quelli aperti, perché io ho quelli chiusi e non vanno bene, se no non entrano dentro la radio. Devo comprare solo quelli. Cavo ne ho, quanto ne vuoi di cavo io, capito? Anche da 2,5. Lo vorrei avere nel cavo, quello elettrico, ma non vuoi un fisso. Dovrei avere il nero, dovrei avere e forse anche il rosso. Se non c'è il rosso lo voto blu, non me la fotti nulla, ma almeno sono sicuro che va bene, tanto è per me. Se poi devo la radio o l'altro, quello rosso e nero, perché anche il corto quello, capito, lo stesso. Dove sei arrivato Gianni? Gianni, non tengo più a Gianni. Sono in zona d'opera, non so se mi senti, sono all'Arena del Sole, Claudio. Ma qui io stava scomparendo. A me non mi hanno messo manco un secondo. Ha risposto. Io ho sentito l'Arena del Sole. Sì, già ti ho sentito. Gava, ma di solito qua in zona d'opera, per quello non ho risposto, tanto non mi sento. No, già ti sento, io da qua su già ti sento, più basso ma già ti sento. Santiago 7 qua. Ma Santiago 5. Signori, io mi ciuffo un bel gelatino al gusto tiramisù, perciò rimango d'ascolto. Vai, vai, carogna. Vai, buon cuore, vai, tiramisù, altra cosa. Quando hai detto che lanciavo i circolazioni nella gamba stamattina, sono fatto tutti roba. È un po' comune questo Marco Condo. È un po' comune, sì. Dimmi Gianni, cosa c'è? Gianni. Ehi, a parlo, cosa c'è? Già ti sento, sì. No, ho capito la domanda, c'è un po' di QRM. C'è un po' di QRM? Quasi. Sono vicino a casa di Giovanni Stanco. Ma che ti fatti vai in macchina? Io ho metto la potenza, ti conosco più che a te. No, ci ho fatto dell'apparecchio, basta. Per l'impianto che hai, stai arrivando a basso lì nella Budi Budi. Io ho la Budi Budi, la prego, mi sembra strano. Vai Marco. Ehi, ho detto, Natali, stamattina hai parlato della tua gamba, hai detto che non c'è circolazione nella gamba, così è. E allora, a quando arrivare da Ottica, che mi dovrebbe con la macchina, ero un gribaldi. No, se non ho fatto la battuta perché Gio Maria si scandalizza, che c'era lui, ho detto, io non c'ho più circolazione nella terza gamba. Sì, no, ma chi, tu o lui? Io. Io per te. Poi svitto, mettili. Ormai è come un ciondolo mio, è come un portachiavi, mi sa che me lo faccio a portachiavi. Una picchiriola, una cosa. Mettili un po' di WD-40. È scura a noi, sì. Ma tu mi senti sempre? Certo, ti sento io. Ma ti sento basso anche Claudio qua, secondo me è una zona buona per te. Non lo so, ti sento S5, S6. Qui è tra 6 e 7 oscillante, 6 e 7 oscillante, smitter a LED, LCD, dai. Ma quelli non sono molto affidabili, Marco. È più affidabile lo smitter deve... Sì, S7 adesso Gianni, quindi più o meno arrivi quanto stai arrivando a Sassari. S7, S6, S7, sì, va bene, sei giù nella bassa valle, non è che è zona d'ombra, sei in basso, stai andando nel velo del mare. Sì, già va bene, S7 mi sentite. Alla grande, S8, S7, 8, arrivi benissimo, non ti preoccupare, vai Natali. Eia, siamo qui, a te l'immagini questo cuomane di Marco di Macondo che si mangia il gelato al tiramisù. Dimmi tu. Adesso piglio la macchina, vado a Platamone e mi piglio un gelato di quelli paurosi. Adesso vabbè, io lo sto mangiando, poi vediamo se me lo tira su. Natali, ti voglio dire, ma tu l'antenna di quanto la vorresti alzare? Cioè, la tua antenna spunta un metro dal bordo del palazzo, no? Così è. Ehi, però c'è un palo da 4 metri, un metro ne lascio dentro il palo e quindi sarà 3 metri più alta. 3 metri più alta, quindi uscirà di 4 metri dal bordo del palazzo? No, 3 metri. Ma se adesso esce già di un metro, no? Più 3 metri, 4 metri dal bordo del palazzo. No, quel palo lì lo tolgo, quello è torto, ci metto quello a 4 metri lì dentro. Mamma mia, un lavoraccio deve essere, boh. Ma la prima volta come l'avete piazzato? Come l'avevate installato? Qualcuno ha tirato lassù, com'è la storia, Claudio? Dillo a Claudio Sparviero che a me me ne scappa la risa. Claudio! Non le rispondo neanche, che se mi ricordo ci arrestano. Per poco doveva passare al palo, ma mi ha scappato la risa. Non volevamo visti, Marco, ti ricordo, non volevamo visti. Capito, non volevamo visti qua. Non capisco come cazzo abbiamo fatto a piazzarla con l'antenna. Perché c'è Natalino forte braccio qua. La massima della bulldozer. C'è Shubes. Roba dell'arrampicata, cazzo le scimmie. Io allora mi dovevo andare in campagna quando andavo a lavare le pulci, i dipuli. Sembrava Tarzan. Usando di poli tipo liane, mi. E allora, cazzo. Con la mantellina nera, mi di notte, io e Marco Scorpio in piazza di Lippoli. Ma ascolta, questa scala aerea proprio non si può avere, no? Ma per il costo. E se si fa una colletta? Qualche giorno. Allora manco te la piazzi bene questa antenna, senza rischi, senza pericolo. Sulle balle qua, una tronzata, qua prendi l'antenna, le attacchi, le togli e fai. L'altra ala verticale me l'ho montata a terra nel giardino, messa, attaccata. Provata, non va bene, tolta, l'ho messa a posto. Cazzo, già lo facevi di lasci. No, ma io adesso piazzo le fasce, la piazzo con... La terra ce la salvo telescopicamente, capito? Da solo ce la salvo. Adesso non la faccio in un altro modo, non la piazziamo più come è piazzata adesso, no? E guarda, è una cosa, un lavoro immane. No, ma è così come hai detto a me, è una trozzata. Piazzi le staffe e poi ti risciugli, capito? E quindi non c'è problema. Ma come abbiamo montato quella, per carità di Dio, quando hai visto già quanti cazzo di fatto a punizione te ne chiedi dentro, di là a me, cosa ne gioco? Non me ne ammetto, avevamo cocco mai. Allora, c'erano belli gasati il giorno, ci saranno dalla rubura ovicola che la dopo l'ombra di tradizione, se no non potremmo addirittura l'antenna. E infatti, se no sarebbe stata così bassa, no, Marco. Capito? Abbiamo tolto un tubo che non ce la facevamo addrizzarla, perché l'abbiamo messa a terra, poi addrizzata, messa in piedi e con la corda tirata su. Capito? Come te le acrobati di Ruggirco, mai ne hai visto due niente di Ruggirco a piccare di facciata, usciamo noi. Minchia! Marco, guarda, da voi uno a Rusicondubiano, a Tiala, su in Oghi, mi pare che sopra Rusicondubiano, pure io, di Rendi, impari a coso, a bulldozer. E dentro la staffa ce l'ha messa Claudio. Non lo voglio ricordare, mamma mia dove sto. Claudio, a te te l'avevo detto, praticamente questa cioè Natalino adesso ha la mia sessantenna. Insomma, questa chicchia di antenna che ho ha compiuto 8 anni. Io ho detto più di 2-3 anni non durerà, pazienza. 8 anni ha fatto. Siamo a maggio, 8 anni. Non l'avrei mai creduto, Ha resistito al vento, eccetera. Anche questa che ho io ha resistito al vento e tutto. Solo che in inverno, quando piove, mi si piena la bobina di acqua e mi salgono stazionari a 2. Praticamente è cosa vostra. Prendo e me la cambio adesso. Me la butto in terra, via. Con quella radio che hai adesso, l'impianto che hai adesso, una pellicola, quella che è master, è piazzata bene, cavo grosso. Da lì ne butti il topo dalla trave. Io ho il cavo messo ai paloni, il piede è già attaccato, pronto all'uso, proprio. C'ho la punta lunga lunga per fare un altro buco. Perché quello che ho attaccato qui, il 213, lo attacca la X30, capito? Da te riesci forte, qua e qua ti arrivano 9-10. Io non sono attaccato a te, io non sono vicino a te. Sei un bel lontano, è una zona bassa per me. Quello arrivi 9 più 10 con questa radio, quell'altro arrivavi 9, con questa arrivi 9 più 10, quindi quando metti la game master arrivi un bel forte qua. Bianco un attimo per me che è arrivata mia figlia, vai Marcolino. Ehi, caspita Antalino, mi ero accorto, siccome qua è incassato da in fondo, non mi ero accorto che ero attaccato. Manco io la verità, perché a te non ti saturami, quindi non me ne sono accorto manco io, la radio è sempre chiara, non va bene, diciamo. Cosa ti volevo dire? Poi con 3 metri più in alto l'antenna dovrei pompare, sono con 10 watt adesso, cosa ti credi che abbia? 10 watt ho messo, 10 watt. Sì Gianni, aspetta che riattacco, Gianni sei al limite, la radio non è capibile, però si sente che stai parlando. Intorno al 5,5 era il segnale, però il QRM è 5, quindi si confonde. Niente già, è un problema di propagazione, dai. Ci sono dei segnali che un po' ti disturbano. di propagazione. Sento i fischi io. E sai cosa è, Natale? Io sentivo dei gruppi di tedeschi in FM che sotto, che continuavano a modulare. Credo che siano quelli adesso del residuo di fondo. Però no, non è pulita la del canale, c'è il QRM a 5, QRM segnalini vari, dai. Anche io, qua è a 5 lo stesso il QRM. Quanto ti arrivo io con 10 watt lì? È variato il segnale, perché sono abbassato, è a 10 watt. No, qua segna 9 più 40, che credo che sia il fondo scala, non va oltre. C'ha 9,60 di fondo scala, ma non ci arriva. E quindi è incollato al massimo, 9,40, dai. Mica. Quindi arrivo forte. 10 watt sto usando. Tanto per Sassari ce n'è anche per i maiali. Sì, ma per Sassari non c'è problema alcuno, anche con un watt. Per dire, è importante che non metterò portanti. Adesso un amico mio mi deve dare due pezzi di tavola per farmi le mensole nuove, così ci stanno bene gli apparati e tutto. Ne metto due e almeno è tutto a posto. Marco! Vai Gianni! Sì, ma anche di segnale. Il segnale è 6 e mezzo. La radio è 3 e 4, dai. Il conto c'è propagazione. Il pipiriolo ti è uscito. Sono quasi a Porto Torres. A Porto Torres? Ma già dentro? Sono 167, dai, adesso. E comunque qua bene, qua arrivi ancora. Natali, tu lo senti? Oh, negativo, è troppo bassa la mia antenna per arrivare lì. Quando avrò l'antenna come si deve, allora avrò anche più ricezione. Adesso non lo ascolto proprio già. Magari lui sente me, ma io non sento lui. Io passo di segnale, ma già lo sento. Sì, ha detto che è basso, ma ti sente. Capito, tu arrivi, Natali. È come la storia mia, quando ero ottava al distributore, io ti sentivo bene e tu non mi sentivi, con l'antenna da un metro, ti ricordi, con la frusta? Infatti, c'ho problemi che c'ho il QRM alto e quindi questa antenna anche QRM bigliaghissue. Con l'altra sarà più silenziosa, poi essendo più in alto riceverò i segnali più forti. Sì, certo che 2 metri in più, Natali, o 2 metri in più, sì, faranno un po' di differenza, ma minima. E vabbè, comunque meglio di niente. Avanti il break. Ho sentito un break, basso, avanti. No, non pervenuto. Vediamo come si sente questo pipiriolo. E beh, sono in AM, prova. Prova. Si sente, è una cosa del genere. Sì, più che altro per la banda laterale. Prova. Sì, per la banda laterale, più che altro per far capire quando è mollato definitivamente. Perché ci sono certi che fanno molte pause nel parlare, pausa. L'altro riprende e poi si sono modulano perché crede che quello abbia smesso e invece non ha smesso. E vabbè. Poco fa su 555 questo arrivava a Santiago Nove, un Alfa Tango. Yes, ma arriviamo veramente bene in banda laterale. La giocuta di Gota, vedi la Gimanzeso. Aspetta che ho aperto Gianni. Gianni, ripeti. Allora, il 7009 CRT, 7009. KPO è 50 watt. Niente, mi è sparito, dai. Carlino, io mi sa che stacco, mamma mia. Qua batte anche il sole, è leggermente più calda come camera. Vabbè che sono con pantaloni e maglietta. Gli altri giorni ero pantaloncini e bu. Vabbè dai, ci sentiamo alle prossime, anche io chiudo. E mi riposo un po'. La signora è andata a vedersi i musei e io mi guardo un po' di TV. Prima riposa, poi a studiare, prima il dovere, poi il piacere, poi la TV per ultimo. No. Oggi è domenica, a quando venerdì. E va bene, ciao a tutti, un buon proseguimento di serata, ciao. Ciao, ciao Marco, salutami a Gianni e a me. Se mi sente, ciao Gianni. C'è un pirla che sta mettendo musica sul ponte amatoriale in VHF. Attento Natalino Cuocuomane, attento Natalino Cuocuomane. Che andava a riposare, perché io tanto sto facendo lo stesso, che qua batte il sole e comincia a essere più calda questa stanza, Claudio, e quindi vado al versante all'ombra, dai, ciao, ci sentiamo. Anch'io ero così, no, per casa dovevo levare, neanche la giugna qua è un sollievo, un sollievo. C'è la finestra che dà al Carverio, c'è il corridoio del Carverio, c'è un'arietta fresca e poi come contentata qua ci sono 8 gradi meno di fuori e non c'è condizionatore. Va bene, dai, ci sentiamo a frappè, ciao ciao. E io ciao anche gli ascoltoni, ciao ciao. Marco, attenzione Marco Condor, mi ascolti? Sì Gianni, circa 8, sto chiudendo. C'è Claudio anche, mi te lo mando e vado in quelli T. Claudio, vuoi parlare Gianni? Da parte mia al passetto. Dove sei? Al passetto, dove peschiamo le seppie, Claudio. Arrivi bene, 8 anche a me stai arrivando. Cappè, ci avevo il Top Gun che sarebbe... Mi preso là. Ha pescato un pesce, una smetta. No, sta arrivando benissimo, alla grande. E ce n'è gente pescando? Sì, c'è uno che adesso l'ha piegato la canna in due, deve essere abbigliato. O ha incagliato, va, perché la canna è pigiata in due, ce l'ha presa uno. Controlla, controlla, non ti fare sfuggire niente. Ma soprattutto augurali buona pesca, minimo. Se diciamo che sta pescando buona pesca, ti si mandano a mare. Lo so. Ma sempre te lo dico, perché io ero un ragazzo, ero forse ventenne, ventitrenne, e avevamo all'inizio la domenica di andare in moto al porto, capito? E che questo stava pescando anche bene. Vabbè, arrivederci, buona pesca, vai di vaffanculo. E anche di peggio, da ragazzini, quando eravamo pigini pigioni andando un po' a sfottere i pescatori, uno ci stava inseguendo, ci voleva picchiare, e ci avevamo avuto 12-13 anni. Cazzo, mi hanno andato in mare, faccio il tubo, ma già gli ho fatto nulla. Si dice buona pesca, quella più grande, non si dice, capito, è quello che amate, non amate. Sì, una volta è successo, lascia perdere che con Ivan e altre persone che avremmo incontrato dopo dovevamo andare a pesca tutti insieme. Siccome mamma non le sa queste cose, dice ciao Ivan, ciao Marco, allora buona pesca. Lei l'ha fatto senza malizia, proprio per dare un buon augurio. E noi, no, cazzo, tanto vale non andare. Anche il pescatore, dico, c'è porta sfiga. Vabbè. Sì, in bocca al lupo, cosa la balena. Vabbè, vi risaluto, dai, vado a stendermi che... No, giuga. Ciao, sei troppo caldo, ciao. Ciao, ciao, Marco, ciao, sono un codice. Perché allora anche se da 500 grammi già tira maledetta. Sì, e io, va bene. Gappa gappa. Ti trovo acqua pescando, sono calmo. Ma è un amico, vai, se non c'è andare, perché la volta hanno fatto razzia. La testa, non è... Le robe, c'è sempre questo imbecille in FM che ti sta disturbando un bel. L'altra volta hanno fatto razzia, perché ho messo il ritiro di tutta la 32. Già, ti sta superando questo in FM. È un pezzo basso. E quindi ci vai tu? Cosa? Ma ci scendi dopo, dopo cena vai a pescare. Anche se lì sta disturbato. Io lo so, sì, arriva forte, togliti a fondo scala in FM, la matta me li varie. Facciamo in FM? In FM? Sì, andiamo sull'altro canale, esatto, che faccio disturba. Vai al 5, canale 5 vai. Al 5, vai.